Smart City, la città intelligente. Buonasera da Chiara Albicocco. In questa puntata di Smart City ci occupiamo di rifiuti, di quei rifiuti abbandonati sul ciglio della strada. Montagni di sacchi e sacchetti lasciati abusivamente in zone periferiche, un po' appartate, lontane dalle abitazioni. Si stanno studiando diversi interventi per evitare questo fenomeno, dal personale di sorveglianza alle videocamere, ma c'è un'azienda municipalizzata della nettezza urbana, precisamente dell'Alta Val Sugana, che ha messo a punto un metodo piuttosto efficace. Sentiamo di che cosa si tratta dal presidente Francesco Perger. Buonasera e benvenuto a Smart City. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, come avete pensato di agire contro questi rifiuti abusivi? Premetto, noi abbiamo un fenomeno di abbandono di rifiuti che si aggira attorno all'1,5% della totalità dei rifiuti raccolti da parte della nostra azienda. Quindi sono molto disciplinati i vostri utenti. Assolutamente sì, tant'è che siamo ai primi posti a livello nazionale di raccolta differenziata. Diciamo che è un fenomeno in un Trentino particolarmente pulito. Da parte nostra abbiamo attivato tutta una serie di interventi per quanto riguarda innanzitutto la tutela dell'ambiente, quindi è ovvio che soprattutto un turista che si trova a circolare per i nostri boschi è brutto che si ritrovi un sacchetto di rifiuti abbandonati sia nel bosco piuttosto che presso le isolette ecologiche. O sulle strade anche, ai bordi delle strade, no? Ci succede spesso di vederli, non in Trentino, però probabilmente anche grazie appunto alle tecniche che avete studiato. Certamente, da parte della Polizia Municipale, dell'Alta Val Sugana, ma anche da parte del Corpo di Polizia Forestale, abbiamo messo in atto un sistema che ci permette, rilevando l'abbandono, di richiedere l'intervento da parte dell'organo di polizia, il quale esegue l'intervento andando a ricercare nel sacchetto di rifiuto abbandonato dei riferimenti che potrebbero ricondurci all'autore dell'abbandono, no? Quindi diciamo che tutto nasce da una collaborazione tra la vostra azienda della nettezza urbana e le forze dell'ordine, la municipalizzata o anche la polizia. E cosa fate? Quindi trovato il sacchetto lo aprite, anzi lo aprono, perché loro hanno gli strumenti, no, per poter manovrare anche questi rifiuti che non si sa da dove provengano. Certamente sì. Ecco, noi, i nostri operatori che presidiano giornalmente il territorio, rilevando l'abbandono, contattano direttamente il corpo di polizia, il quale interviene con dei guanti e tutti i sistemi di prevenzione, ricercano all'interno del sacchetto se c'è magari un riferimento, tra cui, non lo so, uno scontrino fiscale, una tessera, uno scontrino che ci fa risalire a una raccolta di punti presso il supermercato, piuttosto che qualsiasi cosa che possa far sì che si vada a risalire all'autore dell'abbandono, appunto. Ecco, e a quel punto però non siete magnanimi, giustamente, no? Queste cose vanno punite. Che cosa succede quindi? Ecco, assolutamente sì. Proprio nel rispetto di chi le regole appunto le rispetta, scusi il gioco di parole, noi applichiamo il decreto legge 152/2006, il quale prevede delle sanzioni che variano, dipende dall'autore dell'abbandono, se è una ditta piuttosto che un privato. Comunque ci sono delle sanzioni pesanti che possono arrivare comunque anche a 20-30 mila euro, insomma. Quindi è giusto, nel rispetto di chi rispetta le regole, sanzionare chi effettivamente è giusto che venga procede punito alla sanzione. Certo, quindi diciamo che questa collaborazione con le forze dell'ordine vi fa andare a bussare alla porta del disgraziato, insomma, che ha lasciato il sacchetto o il rifiuto in maniera impropria, e giustamente gli fate pagare la multa. Lei diceva, nella vostra zona il fenomeno non è diffuso, per fortuna, però in alcune zone delle nostre città, soprattutto quelle periferiche, il sistema è diffuso e come? Quindi perché secondo lei questo tipo di sistema non viene utilizzato anche in queste zone? Guardi, si parla spesso dell'applicazione delle varie normative per quanto riguarda il complesso mondo dei rifiuti. Purtroppo ci si scontra spesso e volentieri, ahimè, con la norma che prevede da un lato il fatto di non poter mettere sotto videosorveglianza le isolette ecologiche per la raccolta dei rifiuti stradali, e questo ovviamente può comunque essere una difficoltà per gli enti gestori che si occupano della raccolta differenziata. finanziata, comunque si deve sempre considerare la tutela della privacy e tutta una serie di norme che, seppur eseguite per un pubblico interesse, diciamo, potrebbero portare l'ente gestore che attiva questo tipo di procedura a delle conseguenze poco piacevoli. È un peccato che dal punto di vista di garante della privacy non si vada a permettere alle aziende che svolgono un servizio di pubblico interesse come quello, certo, della tutela dell'ambiente, ci mettano in difficoltà in questa maniera. Bisognerebbe trovare una soluzione. Per quanto riguarda dalla nostra parte il discorso del limitare questo fenomeno, abbiamo voluto, in concertazione con i sindaci proprietari della società, di riportare in bolletta quello che è il costo del rifiuto abbandonato, al fine di incentivare l'utente che, se trova un altro utente che non rispetta le regole per la buona raccolta e la buona tutela dell'ambiente, a bacchettarlo, perché sennò ci rimettiamo tutti. E infatti lo stesso utente, appunto, è incentivato a dire: guarda che io pago per te, dal momento che, visto e considerato, tu non fai la raccolta come deve essere fatta, io una piccola parte di costo della bolletta te lo pago io, perché tu non rispetti le norme. Io la ringrazio, Presidente. Lo so che lei ci tiene a ricordare che nella vostra comunità montana ci sono i comuni ricicloni più ricicloni d'Italia, insomma siete stati premiati più volte sia per il riciclo del legno che per la raccolta differenziata, quindi continuate così, insomma vi abbiamo chiamato apposta perché siete un esempio. La ringrazio per la disponibilità e per l'opportunità che ci avete dato. C'è da dire che nel nostro piccolo noi cerchiamo di fare tutto il possibile affinché l'ambiente sia sempre più pulito, garantendo comunque anche quello che è una futura gestione del territorio, per evitare, limitare il sorgere di nuove discariche che non portano mai a grossi benefici per l'ambiente. Per questa puntata è tutto, noi ci sentiamo domani e parleremo di Eurovelo, un progetto europeo che prevede la costruzione di 70 km di piste ciclabili. Buona serata a tutti.